con Emanuele, Sergio ed Elisabetta di L'Autoradio per parlare della tavola rotonda delle radio indipendenti a Perugia al Press 2. In realtà si tratta di una 4 giorni dal 3 al 6 aprile 2019. Ben trovati. Ciao, ciao, ciao. Cominciamo facendo una panoramica di questa 4 giorni, ce la descrivete? Sì, allora, Press 2 innanzitutto è un festival indipendente che nasce l'anno scorso, con la prima edizione a Perugia. Fondamentalmente si tratta di radio indipendenti, web radio e anche collettive e singolarità che hanno deciso di costruire insieme un festival, diverse giornate in cui discutere fondamentalmente di comunicazione, nuovi linguaggi e controcultura. Una necessità che nasce soprattutto da ponendoci determinate domande, appunto, metodologia tipica appunto di movimento. Noi siamo partiti da alcune domande, come ad esempio qual è lo spazio delle controculture rispetto agli attuali modelli dominanti e come anche qual è il nostro spazio per potersi affermare, qual è lo spazio della comunicazione indipendente per potersi affermare nell'era del Web 2.0. Partendo da queste domande, replichiamo questo festival con la seconda edizione che si terrà, appunto, partirà questo pomeriggio fino a sabato fine settimana, coinvolgendo quest'anno diverse realtà. Avremo infatti come co-organizzatori Yabassa Perugia, Radio Sherwood, Radio Sonar di Roma e Radio Senza Muri. Quindi innanzitutto si allarga lo spettro di organizzatori proprio perché si allargano anche le esigenze, ragionamenti anche più ampi che arriveranno a trattare tantissimi temi. Parleremo di situazione climatica, cambiamento climatico, situazione ambientale, parleremo ovviamente di nuovi linguaggi con una trasmissione il giovedì che abbiamo pensato appunto di chiamare Dai muri alla rete proprio per anche dare il senso delle diverse forme di comunicazioni che attraversano ora il nostro modo anche di agire, di far politica. Parleremo di linguaggi femministi, parleremo della situazione di Gile Gialli, fino ad arrivare poi a quella che è la tavola rotonda finale su capitalismo digitale e appunto questa proposta di network. Questo più o meno in sintesi la linea di questo Press 2 2019. Partiamo anche dalla vostra realtà. Ci raccontate un po' l'esperienza di L'Autoradio? L'Autoradio nasce nel 2014 tra le mura del centro sociale ex Mattatoio a Perugia, centro sociale che è stato poi chiuso sul finire del 2015 e per il quale stiamo ancora, insomma, sostenendo delle spese abbastanza importanti. La nostra web radio è una web radio totalmente pirata perché ci appoggiamo su delle piattaforme come Cloud per caricare i podcast, quindi lavoriamo in podcast e non abbiamo una diretta. Soprattutto è una realtà indipendente che nasce dal basso e negli anni, ecco, si sta strutturando nel tempo. Ci focalizziamo adesso invece sull'incontro delle radio indipendenti, la tavola rotonda di sabato. Allora, come dicevamo, sabato abbiamo questa tavola rotonda. È una giornata che abbiamo deciso di un attimo separare dal resto. Ovviamente rientra perfettamente nel Festival Press 2, nelle pieghe del giornalismo, ma abbiamo deciso di focalizzarci proprio su una tavola rotonda. Innanzitutto per dare una metodologia rispetto a questa tematica. Tavola rotonda vuol dire che diverse realtà, radio, web radio di movimento, sabato si incontreranno qua a Perugia per cercare di innanzitutto far provare a creare un fronte comune, ma anche per iniziare proprio a rapportarsi rispetto ad alcune problematiche che soprattutto in questo periodo si stanno facendo facendo sempre più aggressive. Mi riferisco in particolar modo anche alla recente notizia appunto della legge europea sul copyright, di cui sempre nella giornata di sabato parleremo in maniera approfondita. Rispetto appunto a questo forte attacco che ci verrà proprio personalmente coinvolti, come in quanto radio, web radio, radio indipendenti, ci sembrava doveroso e soprattutto molto utile provare a rilanciare, provare a innanzitutto creare, confrontarsi, prima cosa di tutto, creare un discorso condiviso e provare a rilanciare all'attacco. Quello che accomunerà sostanzialmente la giornata di sabato, la tavola rotonda, è sia questo scopo unico, questo fine comune, ma anche appunto la più o meno la metodologia e la composizione dei vari soggetti che parteciperanno e animeranno la tavola rotonda. Come dicevo, parliamo prevalentemente di radio, web radio di movimento, che quindi sono particolarmente colpiti dalla situazione attuale, sono particolarmente soggetti proprio al capitalismo digitale, che sta cercando sempre di prendere più terreno rispetto invece alle esperienze indipendenti e rispetto ad ogni forma di controcultura che, così come la situazione è oggi, fa fatica effettivamente ad attecchire. Quello che ci auguriamo è creare una rete tra più soggetti possibili, che vada al di là di ogni possibile, di ogni differenza esistente, mantenendo ovviamente tutte, cioè vedendo nella differenza anche un valore, ovviamente, mantenendo inalterate tutte le particolarità e le peculiarità dei soggetti in campo, ma tenendo in considerazione comunque che c'è un attacco molto forte. La legge sul copyright arriverà ad appiattire effettivamente tutto il mercato. Iniziamo perciò a capire bene anche tecnicamente di cosa si tratta, cerchiamo di darci degli strumenti anche tecnici per non sopravvivere, ma proprio per rilanciare, per cercare di imporre quella che è la nostra visione di radio, quella che è la nostra visione di indipendente e quella che è la nostra visione di mondo. Perché ovviamente parlando di radio indipendenti non parliamo solamente di comunicazione radiofonica fine a se stessa, ma in quello che diciamo, in quello che facciamo, è mi sento di estenderlo a tutti quanti i soggetti interessati, noi ci inseriamo ovviamente un'idea diversa proprio di agire, un'idea diversa di far politica e un'idea diversa di intendere le cose. In chiusura ci date tutti i luoghi, orari e riferimenti appunto internet per la programmazione? Sì, allora, il programma inizia con la prima giornata Under Press, dove noi dell'autoradio faremo insomma una specie di presentazione del festival, mentre le giornate di giovedì e venerdì saranno in diretta streaming su Radio Sherwood e sui canali social dell'autoradio, di Radio Sherwood, di Radio Senza Muri, di Radio Sonar. Nella giornata di giovedì abbiamo il panel su controculture nell'informazione, quindi dalle 17.30 alle 19.30 nuovi linguaggi tra i muri e la rete, dalle 20 alle 21 musica e giornalismo indipendente. Nella giornata di venerdì 5 aprile invece avremo una giornata che si concentra sui movimenti transnazionali tra la narrazione e la realtà. Inizieremo alle 17.30 con il panel sui linguaggi femministi, alle 18.45 avremo invece la sfida per il climate justice e dalle 20 alle 21 i cide gialli tra insurrezione e rivoluzione. Concludiamo la 4 giorni di Press2 con sabato 6 aprile, dove dalla Sala Migliocchi in corso Garibaldi 136 avremo alle 16 il workshop sulla legge europea sul copyright e invece alle 17.45 inizia la tavola rotonda delle radio indipendenti. Allora, ricordiamo la seconda edizione di Press2 a Perugia dal 3 al 6 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuele, Sergio e Elisabetta di L'Autoradio. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi. Un abbraccio, ciao.